Buonasera a tutti, grazie. Devo ringraziare Michele perché mi ha invitato a questa manifestazione. Io prima di rispondere a questa domanda ho bisogno di dire un paio di cose che sono, diciamo così, importanti per inquadrare il tutto quanto. Io non sono uno scrittore, io di professione faccio l'editore, mi piace leggere. Facendo l'editore evidentemente non ho avuto tanti problemi a trovare chi mi pubblicasse il libro, è un vantaggio. Non ho competenze di ricercatore, di storico, di sociologo, di economista. C'è soltanto una cosa molto importante, io vivo a Rimini da 50 anni e sono nato ad Ascoli. Quindi l'unica grande cosa veramente importante è che io appartengo. Appartengo a tutta quanta una serie di persone che alla fine degli anni 40 hanno deciso di prendere le loro poche cose e di trasferirsi in Romagna e altri in Toscana. Io per rimarcare questa mia appartenenza ho voluto firmare questo libro col mio nome in dialetto. Non so se nel milanese questo succedeva, nelle Marche, in Toscana, anche in Romagna, fino a poco tempo fa si conoscevano le persone non per il cognome, ma per il soprannome. Se chiedevi chi era Capitani non lo sapeva nessuno, se chiedevi chi era Veglielì in campagna lo sapevano. E il tramite di questa conoscenza erano i bambini, perché a scuola si faceva l'appello in italiano e poi però tutti si conoscevano in dialetto. Quindi la prima cosa che devo dire è questa: ho soltanto voluto fare un atto di amore verso la terra dove sono nato. D'altra parte Pavese diceva: un paese ci vuole, non fosse altro che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ecco, io scrivendo questo libro ho ritrovato le mie radici, ho ritrovato il mio paese. E per raccontare per quale motivo gli ascolani si sono mossi, io ho dovuto raccontare e scrivere le condizioni di vita in quel periodo da quelle parti, perché evidentemente è ovvio e normale, se uno va via da una parte, le radici, i motivi per cui si muove da quella parte per andare da un'altra parte sono lì. Ed è venuta fuori una ricerca fatta di un centinaio di interviste, quindi il libro non è il mio, il libro io ho cercato di mettere in bella copia quello che mi hanno raccontato i contadini, perché tra l'altro la cosa bella di tutto il libro per me, personalmente per me, non è il libro, sono stati gli incontri, con tutti i racconti, gli aneddoti, le storielle, poi magari se capita ve ne racconto qualcuno. E quindi ho dovuto raccontare come si viveva da quelle parti alla fine degli anni 40. Ecco, diceva per esempio Michele del fatto di vergognarsi di essere contadino. Beh, io, anche una domanda che mi ha fatto quando ci siamo visti, perché casualmente siamo tutti e due di Rimini, quando ci siamo visti qualche giorno fa per parlare di questa cosa. C'è stato un periodo in cui la terra non valeva nulla, perché tutti quanti andavano a costruire i frigoriferi. E chi lavorava nella terra, non sembri strano, ma perché oggi c'è un po' di riscoperta anche importante, mi fa molto piacere. Io non sono orgoglioso di essere figlio di contadini, però non mi vergogno di essere figlio di contadini, anzi ho imparato molte cose da mio padre. E c'è stato invece un periodo in cui essere contadini era difficile. Diceva Michele che si è messo a ridere quando glielo raccontavo che non si trovava neanche la moglie, perché le donne non volevano andare a lavorare nei campi, che era faticoso, oltretutto era sporco, e era meglio andare a stare a casa con un operaio che magari la sera era sempre a casa, era pulito, eccetera. Non so se questo può essere già, no? Sì. Ok, questo è